Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'obiettivo è quello di fare finalmente una riforma che consenta all'Italia di essere un po' più semplice. Se passerà questa riforma, dal lunedì mattina, per chi prenderà le decisioni, non per me, ma per i governi dei prossimi 20 anni, per i parlamenti dei prossimi 20 anni. Con il sì Renzi, con solo il 30 o qualcosa di più dei votanti, il 30% naturalmente, è pari a questo, ricordiamocelo, al 15% degli aventi diritto al voto, e quindi con il voto di un italiano su 6 avrebbe in mano tutto, avrebbe in mano il governo, la Camera, il Senato e di conseguenza il Presidente della Repubblica e i giudici costituzionali. Si creerebbe un vero regime. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, inevitabilmente lo scontro politico è sempre sulla riforma costituzionale. Ormai mancano 4 giorni, si vota domenica 4 dicembre e stasera il confronto dei confronti, appunto, tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi ci sarà su Rai 1 alla trasmissione Sì e No condotta da Bruno Vespa, e qui naturalmente a Effetto Notte. Voi seguitela da qui, non dal televisore, da qui, dalla radio, da Radio 24. A Effetto Notte seguiremo questo scontro fatidico tra quello che molti considerano il padre e il figlio, tra il maestro e l'allievo, eccetera eccetera. Insomma, quanti paragoni sono stati fatti tra i due leader. Vedremo stasera come se la cavano, ognuno naturalmente per quanto riguarda il proprio fronte. Saranno in realtà 4 gli esponenti politici nella trasmissione su Rai 1: Renzi e Alfano per il sì e poi Berlusconi e Salvini per il no. Di questo ci occuperemo in particolare, poi ci saranno altri temi. Adesso vi racconto tra pochissimo, in sintesi, come sempre, la giornata, e per voi le vostre interazioni con due canali privilegiati che sono la pagina di Effetto Notte, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per scrivere messaggi, SMS o WhatsApp, che è il 349-238-6666. Quindi, se volete fare le vostre osservazioni e riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. Direi a questo punto di sentire com'è andata la giornata. Referendum: Romano Prodi si schiera per il sì e Salvini avverte, secondo me il premier farà saltare il tavolo comunque per tornare alle urne. Questa sera il confronto TV tra Renzi e Berlusconi. Statale: chiuso l'accordo con CGIL e CISL e UIL, il governo ha proposto 85 euro di aumento. Terremoto da Bruxelles, prima tranche da 30 milioni di euro, entro una settimana all'Italia l'anticipo dal Fondo di Solidarietà Europeo. Stati Uniti: Donald Trump sceglie i ministri del commercio e del tesoro e annuncia taglieremo le tasse alle imprese, e sul conflitto di interessi assicura lascio tutti i miei affari per fare il presidente. Banca Etruria: assolti i vertici per il giudice, non hanno ostacolato la vigilanza. Morti in corsia, Saronno, le indagini si ampliano, possibili altri casi, mentre la coppia killer, un medico e un'infermiera, sono in cella, 14 le persone indagate. L'omicidio della piccola Fortuna, secondo il medico legale, fu lanciata nel vuoto viva e cosciente. Cuba, L'Avana saluta Fidel, comincia il viaggio verso Santiago, migliaia in piazza per il leader. Partiamo quindi dalla politica italiana, totalmente dominata dal dibattito sul referendum costituzionale. A 4 giorni dal voto proseguono gli appelli dei due fronti. A schierarsi col sì è stato oggi Romano Prodi. Campagna referendaria che più che ai contenuti continua a guardare al 5 dicembre e ai possibili scenari post voto. C'è comunque un'altra stagione che si deve aprire, dice allora il Presidente del Consiglio. Domenica non si vota su Matteo Renzi, ricorda il Premier, ma chi vuole bloccare la casta domenica ha comunque una matita in mano. Sempre dal governo il ministro Delrio a Radio 24 spiega. Se vince il sì, il governo avrà più forza e più stabilità per andare avanti. Se vince il no, bisogna prendere atto che non siamo stati in grado di convincere agli italiani dell'importanza di questa riforma. Per il sì si schiera intanto Romano Prodi, anche se le riforme proposte non hanno certo la profondità e la chiarezza necessarie, spiega l'ex premier. Sento di dover rendere pubblico il mio sì, nella speranza che questo giovi al rafforzamento delle nostre regole democratiche. Dal fronte del no, Salvini avverte: secondo me Renzi fa saltare il tavolo comunque, sia che vinca il sì, sia che vinca il no. È chiaro che il sì premia i poteri forti, quelli che vogliono un'Italia schiava e sottomessa di un'Europa che ci è matrigna. Poi un messaggio di Salvini a Berlusconi: se desse vita ad altri inciuci le nostre strade si allontanerebbero. Con la vittoria del sì, commenta intanto l'ex cavaliere, non saremmo più in democrazia. Votare sì è votare i ladri, dice dal Movimento 5 Stelle di Battista. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E stasera, come dicevo, il confronto TV tra Renzi e Berlusconi su Rai 1, nel programma Sì e No, da seguire però qui in radio a effetto notte. Statali, chiuso l'accordo tra i sindacati e il governo sul contratto della pubblica amministrazione, dopo una giornata di confronto, alla fine quindi è arrivata la firma al tavolo del Ministero sul nodo degli aumenti da 85 euro. Il contratto del pubblico impiego, contrasto politico pensavo ancora, era bloccato da 7 anni, il contratto del pubblico impiego. Al tavolo erano presenti la ministra della funzione pubblica Madia, i leader CGIL, CISL e UIL e i rappresentanti delle categorie. Tutti hanno firmato sul piatto 850 milioni per il 2017, spuntano poi anche gli incentivi legati alle presenze, ma sentiamo la leader della CGIL, Camusso. Si parte dal fatto che sono 85 euro che saranno la base di riferimento, che si lavora sulle scale parametrali al fine di dare maggiori risultati a chi ha redditi più deboli, ha sofferto di più la crisi, e che si fa una scelta sul welfare contrattuale che è una scelta di integrazione e implementazione dei servizi pubblici, quindi non forme di privatizzazione ma forme che riguardano la sanità e la previdenza in particolare, che servono ulteriormente a qualificare i pubblici servizi. E ci sono risposte su tutti i temi che abbiamo proposto, c'è una risposta sul cambiamento della buona scuola, c'è una risposta sul fatto che non ci siano penalizzazioni derivanti dal modo in cui sono erogati gli 80 euro di bonus fiscale, ci sono delle risorse che sono significative ed equivalenti a quelle che hanno visto la contrattazione dei settori privati, quindi da questo punto di vista le risposte che avevamo chiesto sono venute tutte nelle soluzioni che poi abbiamo costruito in questa lunga giornata. Quindi avete sentito, positivo è l'opinione, insomma i commenti dei sindacati. C'è un'importante novità anche per quanto riguarda le zone terremotate. La Commissione europea annuncia l'erogazione di una prima tranche di aiuti per un totale di 30 milioni di euro come pagamento anticipato dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea per i terremotati nel centro Italia. Lo ha detto la commissaria europea alle politiche regionali Corina Cretu intervenendo a un dibattito nel Parlamento europeo. Entro una settimana l'Italia riceverà quindi un primo versamento di 30 milioni, che è l'importo più alto che possa essere versato a titolo di anticipo. Stati Uniti adesso, Donald Trump sceglie i ministri del commercio e del tesoro e annuncia taglieremo le tasse alle imprese, e sul proprio conflitto di interessi assicura lascerò tutti i miei affari per fare il presidente. Poi ci ritorniamo su questo tema nel corso di effetto notte. Ancora all'estero, con la Siria, il sottosegretario delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Stephen O'Brien ha implorato addirittura il Consiglio di Sicurezza ONU di fare qualcosa per interrompere l'assedio di Aleppo, avvertendo che gli abitanti della città sono a rischio sterminio. Per il bene dell'umanità chiediamo, imploriamo alle parti, a chi ha influenza, di fare tutto quanto in loro potere per proteggere i civili e consentire l'accesso alle zone assediate di Aleppo Est prima che diventi un enorme cimitero, così ha detto il sottosegretario dell'ONU per gli affari umanitari. E a proposito invece della vicenda di cui parlavamo già ieri, dell'ostaggio italiano Sergio Zanotti, i sequestratori che detengono l'italiano in Siria avrebbero anche altri ostaggi. Abbiamo molti europei nelle nostre mani, li rapiamo perché l'Europa, gli americani e i russi ci combattono e vogliamo mettere fine ai bombardamenti in Siria. Ad affermarlo è Abu Jihad, la persona che ha diffuso il video dell'ostaggio italiano Sergio Zanotti nella chat con un responsabile dell'agenzia russa Newsfront. Nello scambio di messaggi si fa riferimento al giornalista norvegese Ole Johan Grimskard Hofstad, messo in vendita dall'ISIS e poi ucciso nel novembre 2015. Abu Jihad minaccia: Roma, agisca o nei prossimi giorni manderà un altro video senza la testa del vostro ostaggio. Hofstad, insieme all'ostaggio giapponese Fan Jingui, fu messo all'asta dall'ISIS con tanto di foto sulla rivista del gruppo Dabiq. L'immagine era accompagnata dalla scritta: è stato abbandonato dal suo governo, che non ha fatto del proprio meglio per comprare la sua libertà. La Norvegia non paga riscatti. Questa fu all'epoca la risposta del governo di Oslo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo ora di petrolio. L'OPEC ha raggiunto l'accordo per il taglio della produzione di greggio a 32 milioni e mezzo di barili al giorno, con una riduzione di circa 1.200.000 barili, lo ha annunciato il ministro del petrolio dell'Iran. E questa decisione dell'OPEC ha messo le ali a Piazza Affari, tanto che il FTSE MIB ha chiuso in progresso del 2,23%. Ora siamo sul processo relativo a Banca Etruria. Arriva la prima sentenza: assolti i manager accusati di ostacolo alla vigilanza. Il fatto non sussiste, il fatto non costituisce reato, sentenzia il GUP del Tribunale di Arezzo che assolve i tre imputati per ostacolo alla vigilanza nel processo Banca Etruria. Per l'ex presidente Fornasari e l'ex direttore generale Bronchi, i PM avevano chiesto 2 anni e 8 mesi, 2 anni per il direttore centrale Canestri, tutti e 3 responsabili, secondo l'accusa, di aver mascherato le reali condizioni in cui si trovava la banca tra il 2011 e il 2013. Nel dettaglio, i manager avrebbero nascosto crediti ormai deteriorati, considerandoli recuperabili, e avrebbero finanziato un consorzio per acquisire gli immobili racchiusi nella società Palazzo della Fonte, così Bonacci, legale di Bronchi. C'è grossa soddisfazione da parte della difesa per aver scelto di definire il procedimento nelle forme del rito abbreviato, e l'epilogo credo che ci dia ragione. In corso c'è però un'altra inchiesta. C'è un filone per un'ipotesi di bancarotta che coinvolge un po' tutto il vecchio CDA, nonché anche l'ultimo CDA prima del commissariamento. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo alla cronaca, l'inchiesta sui morti in corsia all'ospedale di Saronno vicino Varese. Le indagini si ampliano, sembra che siano possibili altri casi di morti sospette, mentre la coppia di killer, cioè il medico anestesista e l'infermiera, sua amante e poi compagna, sono in cella e sono 14 le persone indagate. Torniamo poi sugli sviluppi di questa terribile vicenda più tardi nel corso di Effetto Notte. Sempre per la cronaca, l'omicidio della piccola Fortuna, vi ricordate, a Caivano vicino Napoli. Fortuna Loffredo, bambina di 6 anni, fu lanciata da un'altezza sicuramente superiore ai 10 metri, cadendo di schiena, riportando fratture in più parti, lo ha confermato il medico legale, deponendo come teste al processo davanti alla quinta azione della Corte a sezione d'assise per l'omicidio della bimba del Parco Verde di Caivano. A un primo esame esterno si rese conto subito il legale che la morte era dovuta a una caduta da una grande altezza. Per il medico, Chicca, come veniva chiamata la bambina, era viva e cosciente, non essendo stati riscontrati segni di percosse. Musica, di nuovo si torna a parlare di Bob Dylan. Perché? Perché non snobba solo la cerimonia a Stoccolma del Nobel, come ormai avete sentito, il Nobel per la letteratura che gli è stato assegnato, ma anche l'incontro oggi con il presidente americano Obama, presidente uscente, con i vincitori americani del premio Nobel prima che lo ricevano ufficialmente. Sfortunatamente Bob Dylan non sarà alla Casa Bianca oggi, quindi tutti possono rilassarsi, così ha spiegato John Hirst, portavoce della Casa Bianca, senza però spiegare i motivi dell'assenza. E vabbè, sembra appunto sempre la parodia, no, mi si nota di più se ci sono oppure se non ci sono. La stagione della Scala, passiamo a cose serie, presentata oggi l'opera inaugurale della stagione del Teatro della Scala, sarà Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Quella che sentite è la voce di Maria Callas, che interpretò Madama Butterfly nel 1954, intorno all'aria Un bel di vedremo. Quest'anno il Teatro alla Scala inaugura la sua stagione il 7 dicembre con l'opera lirica di Puccini. 112 anni fa nacque proprio alla Scala, il 17 febbraio 1904, e fu contestatissima, vittima forse di un agguato dei nemici del compositore, ma forse anche della sorpresa del pubblico. Puccini corse ai ripari e 3 mesi dopo il successo al Grande di Brescia. Si definisce una tragedia giapponese che si consuma a Nagasaki agli inizi del Novecento, ma vede un legame con l'attualità americana. Brian Hymel, che interpreta Pinkerton, tenente della Marina degli Stati Uniti. Trump dice è capitalista e l'opera è un contrasto tra culture. Parla della condizione femminile invece per Maria José Siri, Chocho-san, in giapponese Madama Farfalla, una geisha quindicenne sposata da Pinkerton e poi ripudiata secondo la legge nipponica. Li strappano via tutto, anche la speranza. Pinkerton si rispose, tradisce l'attesa accanto al loro bimbo di Chocho-san, che ristabilisce l'onore col suicidio. Un riscatto per i detenuti, sarà proiettata anche in carcere a San Vittore, al minorile Beccaria. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, questa è la giornata in sintesi e poi dopo la viabilità cominciamo a approfondire alcuni dei temi che vi raccontavo in sintesi della giornata. Intanto vedo adesso un'agenzia arrivata poco fa che riporta un audio del pilota dell'aereo precipitato ieri in Colombia, che aveva a bordo una squadra brasiliana di Serie A. Si sente il pilota che dice: signorina, il Lima May India in avaria totale, avaria elettrica totale, senza carburante. Sono le parole del comandante Miguel Quiroga alla cloche di questo volo poi precipitato in Colombia, lo riferiscono i media colombiani citando una registrazione audio tra la cabina di pilotaggio e la torre di controllo dello scalo di Medellin, la città colombiana. Il controllore di volo, dopo aver informato che la pista è libera operativa e che i vigili del fuoco sono avvisati, avrebbe chiesto la posizione e l'altezza dell'aereo, non ottenendo più risposta dopo che il pilota aveva detto detto che non aveva più carburante, quindi pare piuttosto fondata l'ipotesi, la prima ipotesi che c'era stata, che l'aereo fosse rimasto senza carburante. Pensate un po'. Allora, direi di prenderci questo piccolo spazio per aggiornare chi viaggia, e poi vedo già delle agenzie, quindi la puntata è registrata, che cercheremo di sentire in parte su Rai 1, dove c'è il confronto tra il sì e il no con Renzi e Berlusconi. Renzi che dice alcuni del no sono insieme per odio ad persona, ma nei miei confronti, dice, però non è un referendum su di me come non era stato su Pannella per il divorzio. Queste sono le prime agenzie che stanno uscendo. E poi sull'Italicum Renzi dice va bene le proposte per cambiare, poi però io non cambio idea. Queste sono quindi delle anticipazioni, perché il programma in realtà deve ancora iniziare. Ci sentiamo tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Naturalmente sempre appiccicati effetto notte in questi 60 minuti per essere aggiornati sulla fine giornata, su tutto quello che è successo tra l'Italia e il mondo, i fatti principali, prima parte di riassunto della giornata e poi adesso invece con alcuni temi in particolare con gli ospiti. Tra l'altro vi ricordo, per i vostri interventi qui, per interazione a effetto notte, la pagina Facebook del programma oppure il numero 349-238-6666. Stavo guardando infatti qualche vostro messaggio a proposito del confronto che dovremo cercare di seguire questa sera su Rai 1 tra Berlusconi e Renzi. Intanto, dalle prime anticipazioni delle agenzie che già escono, si capisce che è una registrata e che in più non si capisce se sono veramente faccia a faccia oppure prima uno e poi l'altro. Gianfranco dice non ho voglia di sentire né uno né l'altro, figuriamoci insieme, e va bene. Poi Enzo dice ma ci sono tutte e due o solo uno? Ecco, questo bisogna capire, ci saranno tutte e due ma forse non insieme, e poi anche se così era stato annunciato. Poi Marco dice chi ha tolto l'articolo 18 e fatto il patto del Nazareno hanno creato sto casino, io voto no, e va bene, adesso ognuno col sì e col no, tutte e due legittimi naturalmente. Lui, mentre Marco dice due facce della stessa medaglia, i due personaggi, sapete che molti da tempo le accomunano Renzi e Berlusconi, pur con le loro differenze da vari punti di vista. Di questo ci occuperemo dopo. Intanto vi ricordo, se avete acceso puntualmente la radio, quali sono le notizie più importanti. Prodi oggi, Romano Prodi si schiera per il sì, Renzi dice entusiasta è un no alla casta, mentre Salvini, leader della Lega Nord, dice il premier farà saltare il tavolo, comunque vorrà andare a elezioni. E negli Stati Uniti il presidente Trump dice che lascia gli affari per evitare il conflitto di interessi, con me l'America tornerà grande, intanto fa le scelte del ministro del tesoro e del commercio. Accordo sul contratto per gli statali. In Italia un aumento medio da 85 euro, 5 miliardi per i rinnovi stanziati tra il 2016 e il 2018. Renzi dice dopo 7 anni la volta buona. Banca Etruria assolti nel processo, gli imputati non hanno ostacolato la vigilanza. E poi una notizia per il terremoto, tutta la ricostruzione del doposisma si farà con i fondi dell'Unione Europea. La Commissione propone di finanziare le operazioni con il Fondo di Solidarietà Europeo. Morti in corsia a Saronno, vicino Varese, sapete questa vicenda di cui si è parlato ieri, le indagini si ampliano, possibili altri casi di morti sospette. Ieri intanto sono stati arrestati il medico e l'infermiera, questa coppia definita diabolica. E poi L'Avana che saluta Fidel, comincia il viaggio verso Santiago. Come sempre in questi giorni, con il viaggio di Radio 24 attraverso il referendum costituzionale e i suoi contenuti, abbiamo parlato il primo giorno, lunedì, del bicameralismo perfetto, di cosa la riforma vorrebbe cambiare, e poi ieri abbiamo parlato invece del titolo quinto, cioè il riordino delle competenze tra Stato e Regioni, stasera di come cambierebbe l'iter di approvazione delle leggi. Verso il voto. Con la fine del bicameralismo paritario, la riforma della Costituzione modifica anche l'iter di approvazione delle leggi. Soltanto alcune dovranno essere approvate da entrambi i rami del Parlamento, quelle elettorali e costituzionali, quelle che riguardano comuni e città metropolitane e i referendum. Tutte le altre saranno votate soltanto dalla Camera dei Deputati. Entro 10 giorni il Senato potrà però decidere se proporre delle modifiche, a patto che la richiesta venga da un terzo dei suoi componenti. Palazzo Madama avrà 30 giorni per rinviare le sue proposte di modifica alla Camera, che a sua volta avrà facoltà di decidere se accoglierle o meno. Previsto anche il cosiddetto voto a data certa, cioè una corsia preferenziale per i disegni di legge governativi ritenuti particolarmente importanti dall'esecutivo, che potrà chiedere alla Camera di votarli entro 70 giorni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E domani un'altra puntata, naturalmente. Adesso invece concentriamoci su un tema completamente diverso. Ne abbiamo cominciato a parlare ieri, quando questo caso è emerso, cioè questa terrificante vicenda della coppia diabolica, un medico anestesista e un'infermiera sospettati nell'ospedale di Saronno, in provincia di Varese, di aver causato diverse morti. È praticamente un torbido intreccio tra due amanti animati un po' dalla banalità del male, dal delirio di onnipotenza. Pare che il medico, non solo nelle intercettazioni, ma anche da vari infermieri in ospedale, l'avessero sentito dire più volte: io sono Dio, si faceva chiamare addirittura l'angelo della morte. Una vicenda che ha portato all'arresto per omicidio volontario, appunto, di questo medico anestesista e dell'infermiera, sua amante e poi compagna, tra i quali sono intercorsi, secondo le intercettazioni, dei dialoghi scioccanti. E sono diverse, tra l'altro, le persone indagate. Ne parliamo con la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, sì. Quindi i deliri degli amanti killer, adesso sono varie definizioni, però come dicevo lui stesso si è definito con questi nomi, l'uomo termini, che no? Si considerava Dio, l'uomo che si considerava Dio, e l'infermiera che, stando alle sue stesse intercettazioni, era disposta per lui anche ad ammazzare i figli. Sì, una storia davvero inquietante, e con questo aggettivo uso quello che oggi mi ha raccontato uno dei familiari, appunto, delle vittime di questa coppia, che ha usato proprio questo aggettivo. Ecco, il giorno dopo questi arresti, che hanno fatto venire fuori tutto quello che, secondo la procura di Busto Arsizio, avveniva nell'ospedale di Saronno, l'inchiesta sembra andare in due direzioni. Da una parte il numero dei casi, delle morti sospette, che sembra aumentare, cioè oltre alle 5 già contestate ai due indagati, gli inquirenti hanno sequestrato ben 50 cartelle cliniche, e si starebbero già concentrando su almeno altri 10 casi da analizzare. E poi dall'altra parte c'è il tema di chi era informato, era al corrente delle pratiche del cosiddetto protocollo Cazzaniga, come era stato ribattizzato, cioè questo cocktail di farmaci usato dall'anestesista per accelerare le morti dei pazienti, e chi ne era informato e non ha preso provvedimenti. Abbiamo saputo che almeno 7 infermieri erano informati di tutto questo, 2 di loro in realtà si erano anche rivolti alla direzione sanitaria, che però non aveva accertato, non aveva avviato verifiche su queste anomalie. Ora ci sarà anche una commissione d'inchiesta regionale, ma parallelamente ovviamente va avanti l'indagine penale, che oltre quindi a capire quanti casi possono essere stati coinvolti e quante morti sospette potrebbero essere addebitate a questa coppia, dall'altra parte dovrà anche ricostruire tutta la filiera dei controlli e se qualcuno avrebbe potuto intervenire e bloccare tutto questo. E grazie Raffaella Calandra. Tra l'altro, appunto, questa incuranza da parte di medici, dirigenti eccetera, nel non dare seguito poi a queste rivelazioni di morti sospette, di dubbi, no? È veramente grave questa situazione, come dici tu, appunto, l'inchiesta anche da parte della regione, l'indagine va avanti. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, ciao. Sentiamo già Cerenzi a Porta a Porta, speciale referendum. Con meno costi, meno poltrone a Roma e più forza sui territori. Un paese che probabilmente potrà giocarsi delle carte straordinarie per il futuro. Votiamo un no deciso e responsabile per diverse ragioni. Questa riforma è stata costruita su misura per Renzi e per il Partito Democratico, perché tiene per sé la maggioranza del Senato, i cui senatori sono nominati dalle regioni, e sappiamo che 17 regioni su 20 sono governate dalla sinistra. Quindi anche se il centrodestra vincesse le elezioni non ci sarebbe governabilità. Diciamo no per mandare a casa un governo che non è mai stato eletto dagli italiani ed è il terzo a non essere eletto, e che ha portato l'Italia in una situazione che è molto lontana da quella degli altri paesi europei. Diciamo no per poter, dopo questa riforma, sederci ad un tavolo per una vera riforma condivisa. Quindi uno scontro tra due titani, come possiamo dire, finalmente i due leader diciamo vicini nella stessa trasmissione, però non sembra per l'appunto che siano faccia a faccia, che sarebbe stato decisamente anche più, come dire, stimolante. Però intanto adesso sta parlando Alfano, quindi fanno vedere alcune spezzoni, diciamo, dei quattro ospiti che sono appunto questa sera nello speciale Porta a Porta: Renzi e Berlusconi e poi Alfano e Salvini. Intanto però colleghiamoci anche con gli Stati Uniti, dove c'è il nostro Marco Valsani, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ciao Marco. Ciao a voi. Marco, senti, come procede questa transizione, quindi fase di transizione alla Casa Bianca? Mi pare che Trump si stia dando da fare, va avanti con le nomine, no? Ha nominato il ministro del Tesoro e del Commercio e poi ha anche detto lascerò le mie aziende per superare il conflitto di interessi. Vabbè, questo bisognerà vederlo, perché come tutti i magnati, i grandi imprenditori, quando dicono lascio le mie aziende per dedicarmi alla politica, poi nominalmente le lasciano, ma è chiaro che in mani salde di chi è strettamente vicino a loro. Senti, ma andiamo con le nomine. Sì, due nomine, diciamo, di peso, diciamo, centrali per la squadra economica che dovrebbe gestire appunto il progetto di far grande l'America. Steven Mnuchin, nuovo segretario al Tesoro, è un ex banchiere di Goldman Sachs, non è un nome particolarmente noto, non è mai stato sotto i riflettori come grande amministratore delegato di grandi banche, ma è un banchiere di carica, ha fatto una carriera di successo nell'alta finanza americana, appunto, diciamo, ex Goldman Sachs, ex capo di hedge fund, e soprattutto è stato il tesoriere della campagna presidenziale di Donald Trump, quindi anche molto vicino allo stesso Trump. Ha già detto subito oggi che uno degli obiettivi centrali sarà così ridimensionare la riforma finanziaria Dodd-Frank per snellire le regolamentazioni e quindi stimolare i prestiti all'economia e far crescere l'economia del 3-4% e tagli delle tasse che rivaleggeranno con quelli storici effettuati da Ronald Reagan. L'altra grossa nomina, Wilbur Ross, segretario del Commercio, uomo noto come investitore per aver ristrutturato grandi aziende tradizionali del manifatturiero, tessile, siderurgiche, e quindi ha un po' fama di essere riuscito, pur con le sue manovre finanziarie, a salvare anche posti di lavoro in settori tradizionali, quindi ha un'immagine che sicuramente fa comodo a Trump in questo momento, che tra l'altro domani proprio dovrebbe annunciare un primo successo, cioè l'azienda di condizionatori d'aria Carrier, che doveva spostare 1000 posti di lavoro in Messico, invece dovrebbe annunciare domani un accordo con Trump per cui terrà questi 1000 posti di lavoro negli Stati Uniti a Indianapolis. Grazie Marco Valsani da New York, grazie ancora per questi sviluppi della fase di transizione tra il presidente uscente Obama e quello eletto Donald Trump. Intanto direi di approfittare di questa piccola pausa per ritrovarci tra pochissimo. Dice un ascoltatore: ma che discorso è? Certo che lasciano le imprese a gente di fiducia, chi la dovrebbero lasciare? Insomma, quando dicono basta, io non ho nulla più a che fare con le mie aziende, non c'è il conflitto di interessi, diciamo, è una frase che non sta né in cielo né in terra, al di là che sia legittimo o illegittimo. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci ritroviamo dopo, tra poco, con il confronto tra Renzi e Berlusconi. Ah, c'è la parte europea, certo, parliamo prima della parte europea. A dicembre parte a Milano il progetto Sharing Cities, con l'obiettivo di creare un distretto a emissioni zero. Oltre 8 milioni fondi europei a sostegno del progetto, che oltre al capoluogo lombardo coinvolge anche Londra e Lisbona. 5 anni per creare un distretto smart a emissioni zero a Milano, Londra e Lisbona. Le tre città si sono aggiudicate il bando europeo da 25 milioni di euro per il progetto Sharing Cities all'interno del programma Horizon 2020. Al capoluogo lombardo spettano 8,6 milioni da investire nella zona Porta Romana Vettabbia. Ogni condominio avrà auto e bici elettriche in dotazione, parcheggi con sensori per indicare i posti liberi, lampioni wifi e così via. Il tutto per rendere le città più vivibili, ci spiega l'assessore Cristina Tajani. L'amministrazione metterà in campo una serie di azioni che sono volte all'abbattimento delle emissioni tramite la riqualificazione energetica degli edifici, al contenimento del traffico e alla promozione della mobilità elettrica e sostenibile tramite un progetto legato al car sharing di condominio e al bike sharing elettrico, e alla rilevazione misurazione di tutte quelle informazioni utili tramite un sistema di sensori e anche di wifi che ci consentiranno in futuro di programmare ulteriori interventi in questa direzione. Il primo step appunto prevede la riqualificazione di edifici sia pubblici sia privati per un minimo di 40.000 metri quadri da riqualificare entro i prossimi 2 anni. Una quarantina le famiglie coinvolte nel test pilota, i primi interventi cominceranno a dicembre in via San Bernardo, civico 29, per poi proseguire su altri 20 palazzi, 17 i partner del progetto, tra questi il Politecnico di Milano, al lavoro con 2 dipartimenti, sottolinea il prorettore Donatella Asciuto. Il Dipartimento di Energia sta effettivamente lavorando anche sull'edificio di via San Bernardo, sulla parte di retrofitting per l'efficienza energetica, ma anche per il comfort ambientale e per capire come le persone utilizzano i sistemi di efficienza energetica, quindi adesso lavorano per mettere gli apparecchi per misurare temperatura, umidità, la qualità dell'aria, poi c'è tutta la parte di riqualificazione energetica su cui stanno già lavorando sia su quell'edificio sia su altri condomini che si sono candidati a essere sperimentati. L'altro dipartimento che lavora sul progetto è il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, che ha come obiettivo quello invece di capire, di mappare quell'area della città dal punto di vista urbanistico, dei servizi, per individuare nuovi servizi da sviluppare per quell'area. Oltre alle 3 città capofila ci sono già 3 follower, la francese Bordeaux, Burgas in Bulgaria e la capitale polacca Varsavia. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Rieccoci insieme, sta riniziando lo speciale referendum sì no su Rai 1 che cercheremo di seguire, quindi non c'è un confronto faccia a faccia tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi come si sperava chiaramente, perché era decisamente anche più divertente, diciamo, al di là degli aspetti politici dei diversi schieramenti, ma sono comunque interviste registrate, andranno un po' un pezzo uno, un po' un pezzo l'altro, quindi cercheremo di seguirlo alla meglio. E poi volevo leggere prima 2 vostri messaggi tra il 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Giovanni dice: ciao Roberta, Renzi ha realizzato il sogno di Berlusca, distruggere la sinistra, Berlusca quello di Renzi, distruggere la destra. Non è male come messaggio, naturalmente, anche se è un'opinione personale. Ci risentiamo tra pochi istanti. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo delle notizie, come al solito all'inizio il riassunto, poi abbiamo approfondito alcuni temi. Adesso ritorniamo invece su il referendum e su questo confronto che doveva, secondo le aspettative, essere un faccia a faccia tra Renzi e Berlusconi. Io ho detto scherzando tra 2 titani, invece un ascoltatore dice: stai esagerando Roberta, semmai tra 2 Titanic. Allora sentiamo Renzi, intanto che è seduto da circa 5 minuti in studio. Sono molto contento, Vespa, io perché alla fine questa volta scelgono i cittadini. Cioè, lei sa che io avrei fatto una riforma con un po' più di poteri dei sindaci anziché degli amministratori regionali, perché vengo da quell'esperienza. Quindi vi dicevo, non sarà un faccia a faccia, ma prima uno parlerà e poi l'altro. Avrei tagliato ancora di più enti inutili, non solo il CNEL. Però questa riforma è un bel passo in avanti, bello. Bello, significativo. E adesso tocca ai cittadini scegliere. E se i cittadini diranno di no, vuol dire che abbiamo sbagliato noi. Cioè i cittadini hanno sempre ragione. Il popolo che vota, questo non c'è dubbio, ha sempre ragione. Allora, quando tu dici, ragazzi, io ci ho messo il cuore, ho corso come un matto, sono 2 anni e mezzo che stiamo cercando di restituire forza al paese. E se pensate che quelli che stanno sul no siano più bravi, è che venga loro, cioè con grande libertà. È la bellezza della democrazia, proprio quando uno è convinto di fare tutto quello che può fare. È chiaro che qualche errore lo fa. Però si guarda, è un dibattito chiaramente non solo tra due schieramenti, fronte del sì e fronte del no, le opposizioni da una parte, Renzi e PD dall'altra, ma anche interno al PD. Per esempio, potremmo sentire che cosa ha detto e sta dicendo in questi giorni Massimo D'Alema a proposito di questa riforma. Sentiamo. È il capo della casta lui, insomma. Noi siamo tutti ex, io non faccio parte più di nessuna casta da diverso tempo, sono presiedo una fondazione culturale. De Luca ha preso una malattia, diciamo, che è, purtroppo sta diventando una malattia che ha una certa diffusione e che spero che dal 5 dicembre però riusciamo a fermarle. Che malattia è? Il renzismo. Ah. Spero che sono... Ha trovato il vaccino, lei, di quelle epidemie che... No, il vaccino ce l'hanno gli italiani nelle loro mani, diciamo. È un'epidemia che va fermata, diciamo. Quindi il dibattito, diciamo, è logorato anche lo stesso PD tra minoranza Dem, minoranza più di sinistra, e la maggioranza renziana. E poi sentiamo naturalmente anche gli altri, visto che non ci permetteranno di sentirli tutti insieme perché sta andando solo l'intervista di Renzi per il momento nello speciale Sì e No su Rai 1. Sentiamo anche, intanto c'è Vincenzo Miglietta collegato da Roma, il nostro Vincenzo Miglietta. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao Vincenzo, ci aspettavamo insomma un effervescente faccia a faccia, invece intervistato prima uno e poi l'altro, sì. E poi sono in quattro, Renzi, Berlusconi, naturalmente i più importanti, poi il ministro dell'Interno Alfano, sempre per il fronte del sì, mentre sul fronte del no Salvini, leader della Lega. Vincenzo. Sì, effettivamente ci aspettavamo un faccia a faccia, addirittura un confronto a quattro animato, però ci possiamo accontentare sicuramente di un appello che Vespa, stiamo parlando della trasmissione di Rai 1 di Porta, sì, a Porta, che ha fatto comunque fare a tutti e quattro ad inizio trasmissione una quarantina di secondi dei quattro leader che spiegano il perché votare per il sì o per il no rispettivamente, logicamente dalle proprie posizioni, e poi adesso stiamo andando avanti con delle interviste invece di mezz'ora per ognuno, partendo da Renzi. Allora direi partiamo con gli appelli, visto che non possiamo fare mezz'ora di Renzi, giustamente partiamo dal primo appello, era quello di Renzi, tanto per cambiare, mi sembra, Vincenzo. Sì, è così, l'appello di Renzi. Sentiamo. Voto sì perché tutti hanno promesso di ridurre i costi della politica e finalmente i cittadini lo possono fare domenica 4 dicembre. Voto sì non per dare più poteri al Premier, ma per darli ai nostri figli, per avere un'Italia più efficiente, più semplice, più stabile. Voto sì perché non ne posso più della confusione che ha questo Paese, confusione di competenza tra lo Stato e le Regioni, tra la Camera e il Senato. Siamo oggettivamente il Paese più bello del mondo, nessuno lo può negare, ma siamo anche il Paese più complicato. Se il 4 dicembre vince il sì, l'Italia diventa un po' più semplice, con meno costi, meno poltrone a Roma, e più forza sui territori. Un paese che probabilmente potrà giocarsi delle carte straordinarie per il futuro. Questo è l'appello di Renzi, sentiamo adesso l'appello di Silvio Berlusconi. Votiamo un no deciso e responsabile per diverse ragioni. Questa riforma è stata costruita su misura per Renzi e per il Partito Democratico perché tiene per sé la maggioranza del Senato, i cui senatori sono nominati dalle regioni, e sappiamo che 17 regioni su 20 sono governate dalla sinistra. Quindi anche se il centrodestra vincesse le elezioni non ci sarebbe governabilità. Diciamo no per mandare a casa un governo che non è mai stato eletto dagli italiani ed è il terzo a non essere eletto e che ha portato l'Italia in una situazione che è molto lontana da quella degli altri paesi europei. Diciamo no per poter, dopo questa riforma, sederci ad un tavolo per una vera riforma condivisa. Vincenzo Miglietta, quindi abbiamo sentito i primi due appelli dei leader, diciamo, più importanti, centrali, il Presidente del Consiglio e quello che rimane comunque il leader del centrodestra, finché non intende cedere il testimone. Ci prendiamo una piccola pausa, Vincenzo, per aggiornare chi sta viaggiando, e poi torniamo insieme a sentire anche gli altri due appelli, quello di Alfano e di Salvini. A dopo. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi per le vostre interazioni, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero 349-238-6666 e vi ricordo anche velocemente, prima di ritornare al confronto TV su Rai 1, quali sono le notizie più importanti. Il referendum naturalmente, Romano Prodi che oggi si è schierato per il sì e Salvini avverte, secondo me il Premier farà saltare il tavolo comunque per tornare alle urne. Statali, chiuso l'accordo con CGIL e CISL e UIL, il governo ha proposto 85 euro di aumento. Terremoto da Bruxelles, prima tranche da 30 milioni di euro, entro una settimana all'Italia l'anticipo dal Fondo di Solidarietà Europeo. Stati Uniti, Donald Trump sceglie i ministri del commercio e del tesoro e annuncia toglieremo le tasse alle imprese. Banca Etruria, assolti i vertici, per il giudice non hanno ostacolato la vigilanza. Morti in corsia, a Saronno le indagini si ampliano, possibili altri casi, mentre la coppia di killer, un medico e un'infermiera, sono in cella, 14 le persone indagate. Ritorniamo allora a Vincenzo Miglietta con questo confronto tra le motivi del sì e i motivi del no. Abbiamo sentito Berlusconi e Renzi nell'intervista registrata, nello speciale Porta a Porta, no? Sì, è così, interviste registrate, quindi non il confronto che ci attendevamo. Appelli per il sì e per il no da Renzi e Berlusconi, e tra poco sentiremo Alfano e Salvini. Da sottolineare per quanto riguarda Renzi il suo apprezzamento per l'endorsement, chiamiamolo così, lo sentivamo anche dai tuoi titoli, di Prodi alle riforme. Da parte di Berlusconi invece il suo ricordare agli elettori che non cambierà nulla con questa riforma, ma da Berlusconi comunque anche la riflessione che probabilmente la via del voto, qualora dovesse vincere il no, non sarebbe la strada da seguire. Sentiamo allora adesso di nuovo per il fronte del sì il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Ho deciso di votare sì perché è l'ultima occasione per cambiare ed è un'occasione irripetibile, nel senso che se fallisce questa riforma non ce ne sarà un'altra. E penso anche che sia il catalogo delle idee che abbiamo sempre sostenuto, dall'accelerazione del procedimento legislativo al fatto che non ci sarà più la confusione che c'è adesso tra Stato e Regioni, si eliminano un po' di organismi, a cominciare dal CNEL, che sono costosi e non hanno prodotto risultati, si riduce il numero dei senatori, si fanno tante cose che abbiamo sempre sostenuto di volere fare. Aggiungo anche che leggendo e rileggendo il quesito, io credo che sia di assoluto buonsenso votare sì. Ed è di buonsenso perché altrimenti rimane tutto così com'è. Questa quindi è la posizione di Alfano sul fronte del sì. Invece Vincenzo Miglietta sentiamo sul fronte del no il leader della Lega Matteo Salvini. La Costituzione si può cambiare, ma cambiare in meglio. Se il Senato serve, lo eleggono i cittadini. Se il Senato non serve, si cancella. Renzi si è inventato un Senato all'italiana che è un dopolavoro di consiglieri regionali e sindaci nominati dai partiti a cui si regala l'immunità parlamentare. Noi avevamo proposto di mettere l'obbligo per i parlamentari che cambiano partito di dimettersi e di andare a casa. Non l'hanno accettato. Perché? Perché la Costituzione l'hanno fatta con gli Alfano, con i Verdini, con i Casini, con i Cicchitto. Costerà di meno? No, perché con la legge elettorale costerà di più. Le leggi saranno approvate più velocemente? No, perché aumenterà la confusione e soprattutto voglio mandare a casa un governo incapace e bugiardo. Vincenzo Miglietta, quantomeno per forza degli appelli diciamo civili rispetto a tutte le sparate, insulti, guerra fino all'ultimo epiteto, no, che abbiamo sentito finora e poi gli scenari funesti, prefigurati. Sì, sì, diciamo subito che questi ultimi giorni di campagna elettorale sicuramente sono all'insegna di toni più tranquilli rispetto a una decina di giorni fa, lo ricordavi giustamente. Ecco, quello che sta mancando probabilmente è un focus proprio sui contenuti. Il dibattito da entrambi gli schieramenti è più proiettato a cosa potrebbe accadere il 5 dicembre, quindi lunedì ad urne chiuse in caso di vittoria del sì o in caso di vittoria del no. Poco fa Renzi ha fatto capire che qualora dovesse passare la sua riforma darà un ulteriore slancio al governo, soprattutto per un confronto più forte in sede europea. Renzi ha ribadito che porrà il veto al bilancio europeo. Sul fronte del no abbiamo ascoltato probabilmente due posizioni diverse. Salvini che dice se vince il no dovremo andare al voto, e dall'altra parte invece, lo ricordavamo, Berlusconi più cauto, che addirittura negli scorsi giorni ha offerto un tavolo comune a Renzi per perché ci si sieda insieme ecco, e si riapra, Roberta, il dibattito sulle riforme a partire dalla legge elettorale. Dicevamo, Vincenzo Miglietta, che oggi appunto c'è stato questo così endorsement, insomma, schieramento di Prodi per il sì, ha detto è mio dovere palesare, dirlo apertamente che io voto per il sì, anche se non trovo nella riforma una chiarezza e una profondità che sarebbe necessaria. Naturalmente Renzi è entusiasta perché ha incassato un sì importante, no? Diciamo quello di Romano Prodi, però sentiamo invece Bersani, ex segretario PD, attuale naturalmente esponente del PD ma della minoranza Dem, che cosa ha detto a proposito di questo schieramento di Prodi. Trattandosi di Costituzione, che non mi sembra un sì entusiasta, ecco. E comunque lo rispetto. Per quel che riguarda me, io non succhio l'osso e neanche il bastone, non mi turo il naso e soprattutto non lascio il no alla destra. Ha detto non succhio l'osso e neanche il bastone, perché Prodi aveva detto meglio succhiare un osso che un bastone, no? Vincenzo. Prodi, rifacendosi a un detto contadino, così definiamolo in questa maniera, lui stesso lo ha definito così, ha fatto capire che è meglio accontentarsi di qualcosa piuttosto che nulla, e su questa battuta hanno giocato anche gli altri esponenti politici a partire da Bersani. Abbiamo ascoltato per Bersani la riforma o va o non va, e lui ha ribadito il suo no. Ma comunque l'aspetto importante politico dell'appoggio di Prodi al fronte del sì comunque è un messaggio interno allo stesso PD. Ricordiamo che Prodi è stato uno dei fondatori dell'Ulivo e presidente del Partito Democratico. Questo qui poi è un elemento che comunque non si può sottacere. Certo. L'elemento politico, Roberta, che manca questa sera nel dibattito è l'assenza comunque del Movimento 5 Stelle, almeno nell'ospite di Vespa. E ribadiamo quindi, ecco, ricordiamo anche la posizione del Movimento 5 Stelle, no alla riforma Renzi e soprattutto no ad un confronto con le altre forze politiche qualora dovesse comunque vincere il no. Sì, infatti è particolare, non so se è stata un diniego del Movimento 5 Stelle, una scelta editoriale, direi uno di Vespa, però effettivamente c'è Renzi, c'è quindi il PD e il Presidente del Consiglio, c'è Berlusconi con Forza Italia, Salvini la Lega, Alfano UDC, ma manca il Movimento 5 Stelle, tu ne ricordavi la posizione. Vogliamo sentire proprio qualche ultimo secondo di Renzi? Appello, soprattutto a quelli di 5 Stelle, ecco, che sono partiti per cambiare il mondo, per scardinare il sistema, per ridurre i costi. Tra l'altro alcune cose le hanno anche ottenute. Beppe Grillo è venuto a Firenze lunedì, ha fatto un assegno da 80 milioni, ha detto in 6 abbiamo anni, ancora 30 secondi, quindi diciamo il dibattito tutto faccia a faccia tra i quattro che doveva esserci non c'è stato, però abbiamo raccontato le varie posizioni. Direi che a questo punto, Vincenzo Miglietta, lasciamo andare avanti la trasmissione su Rai 1 e poi ci saranno gli altri ospiti, noi stiamo per chiudere però. Sicuramente. Grazie Vincenzo Miglietta, buon lavoro a te a Roma. Grazie. Ciao. E noi ci risentiamo brevemente alle 22.